Il punto di Stefano Folli. E così, salvo colpi di scena, il ministro Cancellieri resterà al suo posto e domani supererà le forche caudine del Parlamento. Il motivo è presto detto: al di là delle polemiche non sono emerse evidenze di reati commessi nell'esercizio della funzione ministeriale. Il chiarimento c'è già stato e la linea del Presidente del Consiglio a difesa del suo ministro lo conferma. Certo, la vicenda lascia dietro di sé una scia sconcertante. Si è alzato il velo su frequentazioni inopportune per un servitore dello Stato e sono intrecci familiari quantomeno singolari. Insomma, tutto quello che serve a suscitare sospetti e rabbia nell'opinione pubblica. E infatti il dividendo politico dell'intero caso Cancellieri Ligresti è già stato incassato da Grillo. Ma per questo non c'è bisogno delle dimissioni, basta il grande polverone che si è alzato. Viceversa, i partiti della maggioranza, per motivi e con toni diversi, non hanno alcun interesse ad alimentare il caso, semmai a chiuderlo senza danni. Idem per un governo che è già debole su altri fronti e non ha bisogno di ulteriori guai.